Benvenuti a tutti, puntata numero 0 della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Una nuova trasmissione ospitata da Radio Big World. Io sono Julian Carax, alla regia per noi Simone Uncini e con me c'è Fumino. Salve a tutti, bentrovati a questo nuovo format di Radio Big World. Il volo dell'Aquila dentro al ciclo Ti racconto una storia. Bene, il volo dell'Aquila è il volo di una comunità, di una serie di persone che sono le persone di Montevarchi. Montevarchi, cittadina in provincia di Arezzo, cittadina di circa 25.000 abitanti, che hanno di conseguenza in comune con tante persone di voi tante cose. E il volo dell'Aquila è il volo di queste persone alla ricerca della montevarchinità. Neologismo, se me lo passate, forse l'Accademia della Crusca addirittura con Petaloso metterà anche montevarchinità. Diciamo è uno dei nostri obiettivi, la ripeteremo, lo ripeteremo allo sfinimento per aspettare l'Accademia della Crusca ce lo passi nei dizionari o quel che sia. Bene, e nell'attesa che l'Accademia della Crusca ci dia il benestare per questo neologismo che ripeterò ancora una volta, montevarchinità, ti chiedo, carissimo Julian, ma a te la montevarchinità come è nata? Come è venuta fuori? Come sei riuscito ad identificare nella tua vita il fatto di essere montevarchino? Guarda, il mio caso è complesso perché io comunque fino a 2 anni fa non stavo a Montevarchi, ma stavo nel paesino confinante laddove c'è una discreta tensione verso appunto Montevarchi, che chiaramente da buoni toscani il paesino confinante è un paesino fra virgolette nemico. Esatto, perché come al solito c'è il campanilismo tipico toscano che anche in questo caso si espande, vive e si alimenta giorno dopo giorno, pur essendo i montevarchini e gli abitanti di quell'altro paese più o meno condividenti gli stessi lavori, gli stessi luoghi, però comunque c'è sempre quella tensione un po' così. Campanilismo che suppongo non sia esclusivamente toscano, ma che sia praticamente di tutti. Alla fine anche i paesetti umbri, anche i paesetti liguri, anche i paesetti siciliani hanno il campanilismo. Sì, è vero, però visto in Italia comunque si parla spesso di Livorno contro Pisa come esemplificazione del campanilismo. E tra l'altro, proprio parlando del volo dell'Aquila, mi ricordo anni fa di una coppia, se non erro di francesi o di olandesi, che vennero apposta a vedere il derby tra il Montevarchi e quell'altro paesino lì accanto, che cadeva, se non erro, il giorno dopo il derby Livorno-Pisa, perché erano degli appassionati delle sfide campanilistiche italiane o in questo caso regionali. Beh, dunque, la montevarchinità si può esportare anche in Olanda, a quanto pare, e alla fine delle persone che hanno dei legami con l'Olanda sono state molto importanti per Montevarchi, quindi tutto il mondo è paese. No, c'è anche tanti montevarchini, insomma, per un altro tipo di ragione o l'Olanda ci vanno a nozze o comunque ci vanno spesso, ecco, ma anche tanti altri, insomma, diciamo una meta turistica ambita. Beh, l'Olanda di chi è meta turistica ambita? Assolutamente di tutti. Paese sereno, io ci sono sempre stato molto volentieri, insomma, bello rilassante, diciamo. Comunque, tornando alla domanda che tu mi hai fatto, sì, io appunto, essendo vissuto fino a 2 anni fa in quell'altro paesino, i primi ricordi che ho della mia montevarchinità sono dovuti alla domenica pomeriggio, perché, via, diciamo alla domenica a pranzo, perché era usanza venire a pranzo dai nonni di Montevarchi, quindi mio padre, che proviene dal quartiere Giglio, mi portava prima del pranzo al Bar Giglio, dopo pranzo al Bar Giglio a prendere il caffè, dopo pranzo anche a prendere le caramelline dai Bronzi, e casa della mia nonna. Bronzi è un noto bar torrefazione di Montevarchi, un posto splendido e sembra uscito dagli Stati Uniti degli anni 60. La casa di mia nonna, il quartiere Giglio, è molto vicino allo stadio, quindi io i primi ricordi che ho giovanissimo era quelli dei cori che provenivano dallo stadio all'inizio della partita, perché comunque il pranzo finiva alle 2:30 quando più o meno iniziava la partita. Mio padre mi ha portato a vedere il Montevarchi, credo la prima volta a 5-6 anni, lui era stato ovviamente tifoso, aveva seguito la squadra in gioventù, mi ricordo di questa partita, me la ricordo non perché mi interessasse ovviamente la partita, tra l'altro io giocavo a pallacanestro, quindi ancora non al tempo, però poi dopo avrei iniziato, quindi a me del calcio fino a un certo punto non me ne è mai neanche troppo interessato, però mi ricordo appunto della prima partita in Montevarchi, sarà in tribuna centrale però scoperta, non quella diciamo coperta che è... Tribuna VIP. Esatto, no, noi saremmo un po' più popolari. E io mi ricordo insomma di questa partita in dove mio padre guardava la partita e io gridavo al guardaline, che chiamavo segnalino, perché ovviamente la gran parte delle persone che stavano alla rete verso il campo gridavano al guardaline, al segnalino. Una delle esemplificazioni tipiche della montevarchinità, perché comunque per una ragione o per un'altra chi è ad arbitrare in campo più o meno sbaglia sempre in un campo di pallone, e a Montevarchi ci piace molto gridare al guardaline o all'arbitro. Questo però probabilmente succede in tutti gli stadi d'Italia. Beh sì, alla fine la montevarchinità si può riconoscere anche in altre cose, anche in altri posti. Penso che quello che per noi è essere montevarchini per altri sia essere di altri posti. Quindi noi parliamo di noi stessi, ma siamo un po' allo specchio di tutti i nostri ascoltatori. Di conseguenza, Julian, dov'è che tu hai riconosciuto la scintilla? Da dove arriva il tuo primissimo ricordo della montevarchinità? Allora, lo sai esattamente da dove arriva? Arriva qualche anno dopo, nel frattempo ero tornato a vedere la partita, però qualche anno dopo alle scuole medie, quando ti trovi in classe in quell'altro paese con compagni che vanno tutti a vedere quell'altra squadra, loro ovviamente discutono di quello che è successo la domenica in quell'altro stadio, il lunedì a scuola, e te ti senti naturale di prenderli in giro se hanno perso, oppure ti senti naturale opporti alle loro speranze rispetto a quell'altra squadra. È lì che io ho capito di essere montevarchino, o comunque di avere della montevarchinità dentro, perché avevo questa volontà di perculare l'altro o comunque di schierarmi contro quella che era la direzione media in quella situazione, perché comunque era chiaro, vivendo in quel paese tutti i miei compagni andavano a tifare la squadra di quel paese, io ovviamente sempre controcorrente, perlomeno fino a una certa età, avevo naturale il fatto di tifare per il Montevarchi, tra l'altro in quel momento lì viveva anche un altro tipo di stagione calcistica o quantomeno di livello differente, perché si parla di anni in cui il Montevarchi era in C1, non l'altra squadra invece che andava a giocare in campi un attimino più umili, diciamo così. Quindi per me i primi ricordi di montevarchinità sono quelli, cioè sono io che per prendere in giro gli altri mi schiero opposto a loro. Questo mi ha portato poi più avanti a iniziare a frequentare la Curva Sud, iniziare a frequentare i bar di Montevarchi, sentirmi sempre più montevarchino anche grazie alle conoscenze fatte in Curva Sud. Quindi in un modo o nell'altro la Curva Sud è stata la porta d'ingresso per me verso un sentimento di cittadinanza, o quantomeno verso un sentimento di amore verso la città. Per me, diciamo, la base della mia montevarchinità, il motivo per cui io seguo Montevarchi è questo. Mentre invece per te che sei montevarchino dalla nascita e che in centro a Montevarchi vivi anche adesso? Per me alla fine è stato un po' più facile, perché come dici tu, essendo nato e vivendo in centro tutt'oggi dalla nascita, a parte una parentesi nel quartiere Pestello, ma insomma alla fine sempre Montevarchi è... Io, come tanti montevarchini, che chiaramente Montevarchi è una città per cui la montevarchinità risplende e viene risaltata dallo stadio e dal calcio in generale. Quindi anche io da bambino giocavo a calcio, come praticamente l'80% dei bambini di Montevarchi di quell'epoca, e giocavo chiaramente nel Montevarchi. L'aver vestito quei colori e averne portato il nome in giro, seppur nella mia misera e inutile carriera calcistica, perché come calciatore chiaramente sono una schiappa, però nonostante questo averlo fatto mi inorgoglisce, cioè mi fa dire: io questa cosa l'ho fatta, anche io ho giocato nel Montevarchi. Mi ricordo benissimo, il mio ruolo era il portiere, io giocavo in porta. Mi ricordo benissimo nell'88, ora l'anno, forse un anno prima o un anno dopo, ma questo ha poca importanza, quando ero ragazzetto, venne per un allenamento il portiere della prima squadra del Montevarchi, che all'epoca era Marchisio, e i miei allenatori erano Ugo Buttino, Mirio Butti e Piero Bencini, il Piero Bencini del famosissimo gol al Genoa dello 0-1 della vittoria in un campo proibitivo, forse ancora di più che la vittoria nella sfida contro la Florencia Viola nell'Artemio Franchi di Firenze. Io avevo come allenatori queste persone e chiaramente per me il fatto, anche solo per un 2 anni, poco più, e in maniera molto misera, comunque di aver vestito quella maglia, di aver detto questa maglia indosso, ce l'ho avuta anche io, è un fatto di orgoglio e di emozione, di appartenenza che probabilmente ogni montevarchino che ha vestito questa maglia, anche per brevissimi periodi come nel mio caso, può dire e può vantare come orgoglio. Sì, perché ora noi ragioniamo e vediamo le cose da montevarchini a montevarchi, però in realtà probabilmente il sentimento di vicinanza o di riconoscimento nella città sarà espresso, mi immagino, anche in realtà simili in tantissime altre città d'Italia attraverso la squadra cittadina. In realtà però quello che si può dire noi è che è difficile a Montevarchi parlare con qualcuno che non abbia più o meno conosciuto, non abbia in famiglia qualcuno che ha dei riferimenti intorno alla maglia rosso-blu del Montevarchi Calcio. Più o meno la squadra di calcio a Montevarchi è riconosciuta da tutti, anche da quelli che non seguono il calcio, anche dalle signore che probabilmente non sanno, o perlomeno sanno dov'è lo stadio ma non sanno nemmeno come è fatto dentro, un cugino, un fratello che sia stato a una trasferta o che abbia giocato nelle giovanili in Montevarchi, più o meno ce l'hanno tutti. Quindi per Montevarchi, il Montevarchi Calcio, l'Aquila 1902, è uno dei pilastri fondamentali di identità cittadina. Anche per questo abbiamo deciso di raccontare il volo dell'Aquila. E appunto è per questo che siamo qua ed è per questo che cercheremo di spiegare la montevarchinità, e di conseguenza il nostro augurio dal cuore è che chiunque ci ascolti da qualsiasi parte del mondo riesca ad immedesimarsi in questa storia e a riconoscerla come sua, seppure magari sia chiaramente di un altro posto. Però alla fine la montevarchinità può essere esportata, può essere allineata a tanti sentimenti pari delle persone che vivono assolutamente con passione il posto dove abitano. Bene, speriamo quindi che questa proposta, questo nuovo progetto interno al palinsesto di Radio Big World possa lentamente e progressivamente interessarvi a tutti, sia ai montevarchini che ai non montevarchini. Poi vedremo anche andando avanti che si può essere montevarchini anche senza essere nati a Montevarchi, talvolta anche senza abitare a Montevarchi, per cui ci auguriamo di potervi coinvolgere con le prossime puntate attraverso quelli che poi saranno i racconti dei nostri ospiti, perché chi racconterà la storia non saremo noi, ma sarà un qualcun altro che intervisteremo e che avrà delle storie interessanti da raccontare che esemplificheranno appunto la montevarchinità attraverso la squadra cittadina, il Montevarchi Calcio Aquila 1902. Vi ringraziamo per l'ascolto, ringrazio il nostro regista Simone Uncini, Julian Carax vi saluta. Vi saluta anche Fumino. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata.